Effetto Mondo. Well, we're gonna have to see who the next administration is, because we won in those swing states, and there was terrible things that went on, so we're gonna have to see who the next administration. L'inconfondibile voce di Donald Trump per aprire anche questa puntata di Effetto Mondo, Giulia. Sì, non so, ascoltare queste dichiarazioni di Donald Trump, da una parte, siccome erano inserite in questa conferenza stampa vera e propria che ha fatto ieri degli aggiornamenti sulla Operation Warp Speed, quella partnership pubblico-privata nata nel maggio, quindi pochissimi mesi, 10 miliardi di finanziamenti pubblici e privati, che ha portato per esempio allo sviluppo del vaccino di Pfizer, ma anche di altri vaccini, e soprattutto a tutta la logistica di distribuzione. Donald Trump giustamente parlava di quello che succederà a breve, di quello che sta già succedendo, e a domanda di un giornalista: ma quindi tutte queste informazioni da cui state partendo e tutte queste cose che state facendo le state condividendo con l'amministrazione Biden, del presidente-elect Biden? E lui ha risposto: beh, vedremo, perché vedremo chi vincerà, chi sarà il prossimo presidente, perché come sappiamo in tutti i swing states, gli stati incerti, abbiamo vinto, abbiamo perso, perché ci sono stati dei brogli. Quindi non si muove di un millimetro su questa questione. Spaventa un po', perché comunque oggi che giorno è? Il 9 dicembre, sì, quando è l'8 gennaio? Il 14 dicembre c'è la votazione ufficiale degli electoral votes al congresso, poi il 5 gennaio ci sono le elezioni in Georgia, ma non c'entrano con la corsa presidenziale, c'entrano con il Senato, e il 21 gennaio l'inaugurazione ufficiale. Di President-elect Biden. Ancora quasi un mesetto di transizione, chiamiamola. Sì. Allora, poi, che altro, Giulia? Poi naturalmente a proposito di amministrazione Biden, sta prendendo ulteriormente forma il governo, ne parlano tutti, dal New York Times a Washington Post. È stata scelta il ministro per Housing and Urban Development, che è un ministero che in Italia non esiste, però è quello che si occupa dell'edilizia pubblica, dello sviluppo della pianificazione urbana, importantissima negli Stati Uniti. È una rappresentante dell'Ohio, è una donna nera, anche in questo caso primo caso di donna nera che occupa questa posizione, mentre per il Ministero dell'Agricoltura, e qui il Washington Post è un po' critico, non viene detto che è bianco, ma è bianco, perché purtroppo il tema è questo, ci riflettevo oggi, che dobbiamo definire se una persona è non bianca, mentre se è bianca niente, Tom Wilsack, punto. Comunque è l'ex ministro dell'Agricoltura dell'amministrazione Obama, che quindi torna in questa posizione. È un personaggio che sicuramente ha molta esperienza in quel tema, e anche qui sappiamo che con tutta la guerra commerciale con la Cina, che coinvolge moltissimo anche gli agricoltori americani, diventa un ministero chiave anche questo. Cos'altro abbiamo in primo piano sui giornali internazionali? Beh, poi naturalmente c'è dappertutto questa signora, questa fantastica novantenne, che ieri è stata la prima donna, prima persona a essere vaccinata, lo sappiamo, nel Regno Unito. La Bild, il quotidiano tedesco, addirittura ha due foto di lei sulla carrozzina, che come sappiamo, insomma, quando si è in ospedale poi si viene trasportata subito dopo una qualsiasi procedura in carrozzina, ma lei è entrata con le sue gambe in ospedale, si è fatta vaccinare, e il Times per esempio spiega che il ministro della salute Hancock ha detto che dalla settimana prossima anche i GPs, equivalente dei nostri medici di base, faranno le vaccinazioni. Quindi, a parte questo, diciamo, queste primissime persone che hanno avuto il vaccino, che ricordiamo è quello della Pfizer BioNTech, quello che richiede temperature di conservazione molto molto basse, poi ci saranno tutti gli altri britannici. Questo naturalmente è il tema principale su tutti i quotidiani, insieme al fatto che la regina si vaccinerà, che lo farà poi probabilmente anche sarà filmata o comunque fotografata mentre lo fa, e poi naturalmente c'è Boris Johnson, che a Bruxelles cerca di trarre il meglio da questi pochi giorni che restano per la negoziazione. E Financial Times titola: intanto però ci si sta muovendo non solo a Bruxelles ma anche a Washington. Pensate che ricordando, insomma, quelle famosi dazi che imposti dall'Unione Europea, 4 miliardi di dazi su prodotti americani per via della guerra commerciale Boeing Airbus, ecco, il Regno Unito ha già annunciato che, per quanto riguarda il Regno Unito, ovviamente non essendo più parte dell'Unione Europea, questi dazi sono un ricordo già lontano. Questo per dire che con l'amministrazione Trump si cerca comunque una sponda per il dopo Brexit. Allora Giulia, dalla stampa internazionale di oggi ci segnali due notevoli curiosità che quindi ci portano anche un po' via dai soliti argomenti, quelli più pesanti. Cominciamo dal Parisien che parla di Ikea. Il Parisien è sconvolto, due pagine su questo quotidiano che è fatto molto bene, sì, è distribuito principalmente a Parigi ma si può vedere anche online, vi invito a farlo, la fine dell'era del catalogo Ikea. Era, credo, si era calcolato, era praticamente la pubblicazione stampata in più copie al mondo. E però non è tanto la questione dell'e-commerce, perché l'Ikea vende online da tantissimo tempo, è che stampare così tante pagine su una carta non proprio di infima qualità, neanche patinata da magazine, però era patinato, esatto, di un certo livello, ha un costo enorme e soprattutto ha un costo ambientale. E siccome tutti, lo sappiamo, in questo periodo cercano di fare questo greenwashing, o proprio di più che darsi una reputazione verde, diventare autenticamente sostenibili, pensate insomma che risparmio, non tanto, era sicuramente carta riciclata, quindi non tanto risparmiare sugli alberi che danno la loro vita per la nostra carta vergine, ma tutta l'energia che comunque serve per stampare e distribuire il catalogo. Insomma, è un invito ad andare online. Quindi, e questo secondo le Parisienne però dovrebbe concretizzarsi anche in un taglio deciso di tutti i coupon, dei volantini che ci vengono distribuiti al supermercato, cataloghi postali tipo Postal Market, che erano molto popolari anche in Francia, naturalmente da tempo non ci sono più, però insomma che l'Ikea dia l'esempio, anche se un po' a malincuore nessuno di noi potrà più sfogliare il catalogo Ikea come se fosse il libro di una della casa dei sogni. E chi ne ha qualche copia tenerla da parte, esatto, perché non si sa mai, potrebbe anche acquisire un certo valore col tempo. L'altra curiosità riguarda l'altezza dell'Everest. Sì, il Shanghai Daily titola con il nome non l'Everest che sappiamo è un nome dato dagli occidentali a quella immensa e stupefacente montagna al confine tra il Nepal e la Cina, e in realtà il nome che gli hanno dato i nativi è Komo Langma. Ebbene, adesso è un pochino più alto, è alto 8848,86 metri. Ieri è stato dato l'annuncio congiunto dai geografi, cartografi cinesi e nepalesi, ed è stata anche un po' di diplomazia della montagna, perché ecco, in fondo sono trovati d'accordo su questo. Sappiamo che insomma tra Cina e India le tensioni non mancano, quindi è stato un momento appunto per anche celebrare uno sforzo tecnologico congiunto. Come hanno fatto? Cosa dicono? Ho visto un servizio sulla CNN, insomma sono mesi e mesi che viaggiano droni, poi vengono usati dei raggi laser particolari, e insomma il primato è ancora più forte, ecco, sembra un po', naturalmente l'Everest è una montagna che è anche al centro di tante polemiche, perché sappiamo che purtroppo esiste anche l'alpinismo estremo turistico, con tutti i danni che fa la montagna, perché poi quando un po' di ghiaccio si scioglie, sotto si trova la qualunque di rifiuti, e quindi il tema insomma della salvaguardia di questi grandi giganti che erano qui molto prima di noi. Giulia, ma è vero che sulla stampa spagnola la sconfitta del Barcellona prende lo spazio dell'emergenza Covid? Guarda, una tragedia. A parte i giornali sportivi, Calvario, l'AS che parla di cristianaso, quindi la cristianizzazione della partita, che naturalmente è 0-3, sappiamo che il 3 è della Juventus. Poi naturalmente c'è anche la questione, quella brutta questione della partita invece del Paris Saint-Germain con la squadra turca, e questo stop al razzismo. Dicevamo prima, definire una persona se è bianca, basta, punto. Se invece è nera, marrone, gialla, rossa, bisogna aggiungere quel colore. Quindi io non vorrei che venisse sottovalutata questa cosa dell'arbitro che dice, il quarto uomo che dice sì è quello lì, è il negro o il nero, mettiamo che si traduca nero dal romeno, è comunque per chi nero è, perché devo essere come persona? Questo è un po' il tema sui giornali di oggi, una questione che in Francia è dibattuta da tantissimo tempo. Proprio l'idea che noi non possiamo saperlo, noi bianchi, come ci si sente a essere così definiti, eccoli il nero, dillo al nero, insomma dobbiamo cercare veramente di fare uno sforzo, perché non è questione di politically correct, l'ho già sentito dire. Bene, dobbiamo fermarci qua, grazie Giulia, è tutta la puntata di oggi con Jacopo De Franchi in redazione, Pietro Lacorte in regia, noi ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento alle 14, ciao, buona giornata.